10. 10. Buonasera. Come ti mai? Io mi sono appena alzato. Ehi, come ti mai? Zavaglielli, come ti mai? Certo, tu dovrai dopo mai messo, bisogna acquistarlo sempre. Anche se mi accadrai, siamo fuggiti. E adesso dovremmo finire, mi sembra agosto, finisce. Ma sempre di passo, no? Sì, sempre lì, sempre lì. Finisce agosto, poi non si sa se prenderà altre parti, magari. Allora per caso è, a finire con il signore. Ui, lascia perdere che sto combattendo una carriera giubriato con i campi e cantieri. Io non vi dico più niente, gli ho detto. Io chiamo l'ambulanza, mi sento male, poi sono cazzi vostri, Però strano è, tu non sei più fatto una cosa di protezione, che non per caso, non condizionare lui, non lo so anch'io, come ti faccio a fare un caso, non esisti. Se c'erano 35 gradi oggi, dentro al gabbiotto, 2x2, un gabbiotto è 2x2, neanche 2x2, fatelo conto che a condizionare siamo noi. Io non sono un rompibale, Giomarì, perché non sono un rompibale, però adesso mi hanno veramente stancato, un anno in più siamo appesi a questi qua, se ne sbattono i coglioni. Io glielo ho detto, non cambiate il gabbiotto, non mettete il condizionatore. Io chiamo l'ambulanza, non vi dico più nulla, chiamo l'ambulanza, faccio vedere dove sono, poi vi arrangiate voi. Fanno tutto loro dopo. Allora, chi sa, la intesa, la base, si va tutti. Sì, vabbè, io non gli dico più nulla. Poi già viene lo spettolato del lavoro a fare il sopralluogo. Avanti vita, grazie, per carità, grazie. Ma la domanda, grazie, non usare il cucchiaccio, non si muove di chi, grazie. Però il mio oggi è casa vero, grazie, è un beccato oggi. Ehi, cerca, ma anche ieri era così, Giovanni, anche ieri. Grazie, io ero un bagno di sudore, oggi ero un bagno di sudore. Cazzo, vado la maglietta, cazzo, un ricrasso. Posso immaginare. Ma la difesa sei io. Cos'è, Giomarì? La difesa ci avete. È a lui, è divisa. È a lui. Ma per carità, lascia perdere. Che se vuole brigare il cazzo imparare tutti gli altri. Ma il telefono. Sì, ya, ci sentiamo, dai, ciao Giomarì. Ci sentiamo, dai, ciao. Ciao.